Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid, si riunisce oggi la cabina di regia per valutare il rischio delle regioni, l'Alto Adige si decreta la zona rossa. Nuovi appelli di medici, infermieri e anestesisti, possibile un raddoppio dei ricoveri in pochi giorni, serve il lockdown nazionale. Intanto in Puglia è un caso la dichiarazione di Emiliano, non mandate i figli a scuola anche se il TAR lo ha costretto a riaprirle nel rispetto del DPCM in vigore. Subito al lavoro il presidente eletto negli Stati Uniti Joe Biden incontra la task force anti-Covid. Bonus PC e banda larga, parte da oggi la corsa ai voucher per le famiglie. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, come avete sentito dai titoli, è riunita la cabina di regia tra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità per la valutazione dei dati inviati dagli assessorati alla salute regionali, sulla base dei quali valutare il rischio delle varie regioni dopo che ci sono state polemiche per le classificazioni in zona gialla, arancione e rossa, mentre l'Alto Adige si è autodecretato la zona rossa. Una decisione è attesa nel pomeriggio dopo la ratifica del Comitato Tecnico Scientifico. Sentiamo. A pochi giorni dalla divisione dell'Italia in tre fasce di rischio, la cabina di regia Governo-Regioni potrebbe cambiare la mappa dei colori nelle prossime ore e a fare il punto ci sarà anche una riunione del Comitato Tecnico Scientifico nel pomeriggio. Sotto la lente ci sono Campania, Veneto e Toscana, attualmente gialle, che rischiano di cambiare status. Intanto l'Alto Adige, autoproclamato da oggi zona rossa, presto potrebbe applicare addirittura un lockdown duro. Non abbiamo alternative, altrimenti collassa l'intero sistema sanitario, spiega l'assessore alla sanità Thomas Widman. Ma ospedali e pronto soccorso sono in affanno ovunque. A contestare la frammentazione delle misure è Enrico Coscioni, il presidente di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Non si capirebbe un cambio di colori delle regioni dopo che hai fatto 4 giorni fa un provvedimento. Andavano fatti i provvedimenti nazionali, forti, uniformi, subito, perché il virus cammina da nord a sud, da est a ovest. E comunque, siccome rimane un certo grado di mobilità, anche quando ci sono i lockdown, e creare asimmetrie sulle regioni non mi sembra una cosa molto intelligente, devo dire la verità. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto, come sentivamo, altri appelli si moltiplicano in queste ore da parte di medici, infermieri e anestesisti. Serve un lockdown nazionale. Secondo gli anestesisti, nel giro di pochi giorni potremmo assistere a un raddoppio dei ricoveri. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno con il presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. Intanto questa mattina ha fatto discutere il caso scuola in Puglia, perché c'è un appello del presidente Emiliano: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, appello che arriva dopo la nuova ordinanza regionale che riapre le scuole fino alle medie, come aveva chiesto il TAR, ma che lascia alle famiglie la decisione di scegliere fra didattica in presenza e didattica a distanza. La ministra Azzolina ha chiesto ad Emiliano di correggere questo provvedimento e allora sentiamo come è andata questa mattina, come si sono comportate le famiglie. Maria Piera Cicilla ha chiesto alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Rina Durante di Melendugno nel Salento, Anna Rita Cerati. In quanti si sono presentati questa mattina? Nessuno, soltanto qualche bambino nella scuola dell'infanzia, però nella scuola primaria e nella scuola secondaria non c'è nessun bambino. I rappresentanti di classe mi avevano avvisato già sabato sera, avevano già tutto deciso e quindi sono stata informata, mi sono arrivati tutti i moduli con la richiesta di potersi avvalere della didattica a distanza. E quindi noi abbiamo tranquillamente proseguito come già stavamo facendo, diciamo, da 10 giorni, perché già con la precedente ordinanza avevamo avviato la didattica digitale integrata e abbiamo continuato. In questo momento sono tutti davanti al computer a fare lezione. Secondo lei è giusto che siano le famiglie a dover decidere se mandare i propri figli a scuola o meno? E non discuto sulla bontà o meno. In questo momento di caos, ciò che io mi auspico è semplicemente che una regola duri poco più di una settimana, perché le assicuro che ogni settimana dover cambiare di nuovo la modalità di fare didattica è veramente disorientante, non tanto per noi quanto per i ragazzi. E ora sul versante economico sono annunciati già per oggi i primi pagamenti diretti sui conti correnti dei titolari delle attività economiche che sono state bloccate dall'ultimo DPCM. Sentiamo. Saranno accreditati tra oggi e domani, assicura l'Agenzia delle Entrate, i primi 211.000 bonifici ad altrettante attività economiche beneficiarie dei contributi a fondo perduto del decreto Ristori 1. Nei prossimi giorni arriveranno in automatico altri 113.000, mentre per 142.000 imprese la richiesta dovrà essere presentata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Sono poi in arrivo nelle prossime settimane altri aiuti dal Ristori Bis, mentre vari esponenti di governo annunciano l'obiettivo di allargare la platea non solo a chi sta subendo chiusure, ma a tutte le attività con calo di fatturato. Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha spiegato poco fa che grazie agli ammortizzatori sociali sono stati salvati in Europa il 10% dei posti di lavoro, 2 milioni in Italia, ma ha avvisato. E in generale le politiche di sostegno, principalmente adottate a livello nazionale, hanno certamente attenuato l'impatto. Cerchiamo di non illuderci sul fatto che l'attenuazione di questo impatto possa eliminare l'impatto sociale sull'occupazione che una crisi di questa profondità avrà. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E allora la pagina internazionale, cominciamo con la vittoria di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, festeggiata anche dai mercati internazionali, così sottolineano gli osservatori economici. Negli Stati Uniti intanto il presidente eletto ha tenuto il suo primo discorso: sarò un presidente che unisce e non che divide, ha detto Biden, che poi ha insediato la sua commissione anti-Covid. Sentiamo. Nonostante Trump non si rassegni, per i mercati l'esito delle elezioni americane è chiaro e dall'Asia all'Europa i listini questa mattina aprono tutti in deciso rialzo. Aspetta invece a brindare Putin, aspetto l'ufficialità, ha fatto sapere il presidente russo tramite il suo portavoce, aggiungendo che comunque l'auspicio del Cremlino è quello di poter costruire un dialogo con il prossimo presidente americano e migliorare le relazioni tra i due paesi. In attesa di ufficialità anche la Cina, il risultato delle elezioni, fa sapere il portavoce del Ministero degli esteri Wang Wenbin, sarà determinato in conformità con le leggi e le procedure statunitensi, e intanto cresce il pressing su Donald Trump affinché accetti la sconfitta e consenta un'ordinata transizione alla Casa Bianca, in particolare quello della moglie Melania e del genero consigliere Kushner, ma il tycoon per ora non demorde, mentre il neopresidente Biden è già al lavoro sull'agenda di governo, a partire dalla nomina nelle prossime ore di una task force di 12 esperti per varare il piano per fermare i contagi da coronavirus che negli Stati Uniti hanno raggiunto quasi 10 milioni. Tra le priorità poi la ripresa dell'economia, la giustizia razziale, il clima. Tra i primi atti del suo insediamento ci sarà infatti il rientro degli USA nell'accordo di Parigi sul clima e nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alessandra Skepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la cronaca torniamo in Italia per un dramma avvenuto in provincia di Torino. A Carignano un uomo ha sparato alla moglie uccidendola e ai figli piccoli gemelli, uno dei quali è morto in ospedale, poi si è tolto la vita lui stesso. Sentiamo. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati i vicini di casa, che avevano sentito dei colpi di pistola. E quando gli uomini dell'arma sono arrivati all'alba nella villetta di Carignano, nel torinese, hanno trovato Barbara Gargano, 38 anni, ormai senza vita, e i suoi due bambini gemelli feriti. Ad aprire il fuoco contro di loro con una pistola legalmente detenuta il marito e padre Alberto Accastello, che poi si è suicidato dopo aver ucciso anche il cane. Uno dei due piccoli, nati nel 2018, è morto in ospedale, l'altra è in condizioni gravissime. Poco prima dell'alba il quarantenne aveva telefonato al fratello annunciando le sue intenzioni. Da tempo la coppia era in crisi e Barbara aveva deciso di separarsi e lasciare la casa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre con la cronaca ci spostiamo a Roma, dove è stata sgomberata questa mattina dagli agenti della Digos la sede di uno dei gruppi ultra della Lazio, che era occupata abusivamente da tempo. Gli agenti della Digos e del reparto mobile di Roma sono entrati in azione in mattinata nel quartiere Tuscolano. I locali di via Amulio, di proprietà dell'INAIL, erano occupati da anni dagli Irriducibili, uno dei principali gruppi ultra della Lazio, vicino all'estrema destra capitolina. Lo sgombero è avvenuto senza particolari tensioni. La sindaca Raggi ha ringraziato le forze dell'ordine. A Roma non c'è spazio per violenze e prepotenze, ha commentato su Twitter la prima cittadina. A fine ottobre la sede degli Irriducibili era finita nelle indagini sugli scontri avvenuti in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione contro le restrizioni anti-Covid decise dal governo. Prima di partecipare alle proteste, alcuni dei manifestanti, tra i quali anche esponenti dell'estrema destra, si erano dati appuntamento proprio davanti ai locali di via Amulio, il cui sgombero era stato sollecitato dalla stessa Raggi anche a fine settembre. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13:11 minuti, eccoci con lo sport, il bilancio, il fine settimana sportivo e cosa ci aspetta per questa settimana con Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao, ciao Alessio, ciao a tutti. Beh, fine settimana calcistico in cui Napoli e Roma sono le vincitrici di tappa, cioè le uniche due della alta classifica ad aver fatto punteggio pieno. Ha chiuso la giornata al Milan ieri sera, una partita molto strana, se vogliamo per i neutrali, credo anche molto divertente, perché il Milan è andato subito sotto 2-0 con l'eccellente Verona di questo inizio stagione e solo al 93esimo è riuscito a pareggiare con Ibrahimovic, che nel finale ha fatto di tutto, cioè ha sbagliato un rigore, ha preso una traversa, ha segnato il gol del 2-2 del Milan in una partita che normalmente quando si mette così perdi, quindi un punto guadagnato io direi per il Milan. Rimangono le buone partite del Napoli e della Roma. Roma con Mkhitaryan su tutti, tripletta per lui. Juventus e Inter, entrambe 1-1 su campi non semplici come quelli della Lazio e dell'Atalanta. In settimana ci aspetta, beh, innanzitutto una sentenza attesa oggi, quella relativa a Juventus-Napoli, che come sapete non si è giocata per le note ragioni legate alle decisioni delle ASL napoletane. E una indesiderata, indesiderabile da molti sosta delle nazionali su cui influiscono anche in questo caso pure le ASL che mettono dei freni ai giocatori convocati di Roma, Lazio e Fiorentina. Quindi settimana tra sport, polemiche e chiacchiere di questo tipo. Grazie Carlo, grazie. Naturalmente ti risentiamo nel pomeriggio sportivo dopo il GR delle 14 su Radio 24. Noi adesso facciamo un piccolo break e poi torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dal presidente dell'Ordine Nazionale Federazione dei Medici Anelli per questo allarme lanciato nelle ultime ore e condiviso da altre categorie come gli infermieri, gli anestesisti. Serve un lockdown nazionale, è questo il coro che arriva in queste ore. 349-238-6666, a tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, cabina di regia riunita per valutare il rischio delle regioni. Nuovi appelli intanto di anestesisti e infermieri per il lockdown nazionale. A effetto giorno in diretta il presidente dell'Ordine dei Medici. Intanto in Puglia è un caso la dichiarazione di Emiliano: non mandate i figli a scuola, dopo che il TAR lo ha costretto a riaprirle. Bonus, PC e banda larga. Parte da oggi la corsa ai voucher per le famiglie. Come funziona e chi può richiederlo? Ne parliamo tra poco. Allora, alle 13:17 minuti torniamo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Come avete sentito, siamo in attesa dell'esito della cabina di regia riunita, il Ministro della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, e poi nel pomeriggio si allargherà al Comitato Tecnico Scientifico per valutare i dati che stanno arrivando dalle regioni per capire se, dopo che ci sono state anche diverse polemiche sulla collocazione delle diverse regioni nelle varie fasce di rischio, c'è da cambiare qualcosa. Zone rosse che potrebbero aumentare. Nelle ultime ore l'Alto Adige ha decretato in autonomia la zona rossa, zone gialle che possono diventare arancioni, arancioni che possono diventare rosse. In questa attesa si moltiplicano gli appelli, le dichiarazioni Stamattina gli anestesisti dicono che si rischia il raddoppio dei ricoveri in giro di una settimana. E c'è stato un appello forte anche del presidente della Federazione della Nazionale, della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che è con noi. Lo ringrazio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei di aver accettato, Anelli. Lei ha detto sostanzialmente che, insomma, con questo ritmo di crescita dei casi si rischia di andare incontro fino a 10.000 morti in più nel prossimo mese. Io le chiedo di specificarci come si è arrivato, non credo a cuor leggero, a fare questa dichiarazione. Non credo neanche che sia un'opinione sua personale, ma esprimerà in qualche modo il parere un po' anche della sua categoria. Glielo dico perché, Anelli, effettivamente noi da un lato abbiamo dichiarazioni che si rincorrono giornalmente e dall'altro abbiamo un sistema messo in piedi di valutazione del rischio nelle varie regioni che prevede zone rosse, zone arancioni, misure di contenimento, che non possiamo pensare neanche questo sia stato fatto, come dire, così, diciamo, a cuor leggero. Allora ci chiediamo da quale parte dobbiamo guardare. Lei, in base a quali dati e ragionamenti, ha espresso questa opinione forte verso un lockdown nazionale subito? Sì, no, le misure del governo tendono a tenere insieme, da una parte, le esigenze economiche, che sono importanti perché i sacrifici chiesti agli italiani sono talvolta anche drammatici, no? Per le conseguenze che possono determinare, dall'altro gli effetti sulla salute. La nostra preoccupazione nasce dal fatto che se questo trend non venisse in qualche maniera ridotto, o non, come dire, se i messaggi dati dal governo non fossero ben recepiti dai cittadini, lo sviluppo di quei dati che hanno caratterizzato l'ultima settimana, se li proiettassimo per i prossimi 30 giorni, ci darebbero naturalmente quelle dimensioni di cui stiamo parlando. L'attesa è proprio che invece questo trend possa cambiare, proprio perché qualche giorno fa sono entrate in vigore delle misure e qualche giorno prima, il 26 ottobre, delle altre. Certo, quindi c'è questa attesa. La preoccupazione diventa ancora più importante perché noi abbiamo, come dire, una previsione a media scadenza, sì? Abbiamo anche l'epidemia influenzale, per cui noi dobbiamo arrivare necessariamente a fine anno, quando inizia l'influenza, sì, ad avere dati accettabili e sicuramente ridotti del Covid. Quindi siete preoccupati anche dalla cioè, come dire, dalla stratificazione delle due cose. Senta, Anelli, però sì, cosa ne pensa invece del sistema e dei 21 parametri in base al quale il governo ha preso tutta una serie di decisioni? Si basa tutto su quello fino a questo punto. Lei cosa ne pensa? Sì, il sistema può funzionare in questa maniera, però non abbiamo l'impressione, da una parte, che i cittadini comprendano il fatto che il governo tende a tenere insieme anche le esigenze economiche, per cui quelle manifestazioni che voi ieri avete registrato, no, nelle piazze delle città italiane, sui lungomari delle città italiane, mostra come il fatto di consentire una gradualità, come dire, fa passare un messaggio che i cittadini possono essere ancora liberi di fare quello che vogliono. Ma questo, secondo lei, al di là del messaggio, il sistema messo in piedi dei 21 parametri di per sé legge bene la realtà? Per noi non lo regge più, se dobbiamo pensare che la prospettiva è il 31 dicembre. Allora, la gradualità in questo momento non ci aiuta a farci arrivare in piena epidemia influenzale con numeri bassi del Covid. Quindi questo sistema, secondo voi, diciamo, va cambiato? E forse è più efficace il lockdown, e sarebbe anche meglio, perché è, come dire, un mese di difficoltà per tutti, però, come è stato nella prima fase, dopo un mese abbiamo scollinato il picco dell'epidemia e quindi siamo poi andati con una curva che si va si andava man mano riducendo. È chiaro. Senta, questo Agnelli, ci aiuterebbe molto. Le voglio chiedere però anche una cosa che riguarda proprio voi medici, no? Anche di cui si parla molto in questi giorni, le cure domiciliari, perché sembra, da quel che riferiscono anche gli ospedali, che ne parla oggi Milena Gabanella sul Corriere della Sera, sì, un malato su tre che arriva in questi giorni agli ospedali potrebbe essere curato diversamente a casa dai medici di base. Oggi sappiamo che ci sono diverse difficoltà, mancano dispositivi di protezione ancora nei vostri confronti, è stato fatto un accordo per l'effettuazione dei test rapidi, però forse non tutti i medici aderiranno. Poi ci sono anche i pazienti a rischio per i quali il medico di famiglia dovrebbe lui stesso farsi avanti e sapere come stanno queste persone. Sembra che a Milano più di metà siano rimasti senza, diciamo, notizie da parte del medico di famiglia. Come mai sta succedendo? Perché tutto questo non avviene? Noi abbiamo un'assistenza domiciliare e territoriale che è stata abbandonata per tanti anni ed è stata concepita più di 50 anni fa, quando non c'erano le nuove professioni che ci sono oggi, quando non c'erano dispositivi e attrezzature che ci sono oggi. Quindi abbiamo, come dire, l'idea di un medico che vive da solo, eccetera. Quel medico che vive da solo oggi in una situazione di questo genere non è in grado organizzativamente di farsi carico di un sistema così complesso qual è un'assistenza che oggi dovremmo offrire. Ma nessuno ha offerto ai medici strumenti sufficienti, protocolli di sostegno per fare questo? Cioè, questo mi sta dicendo? No, le sto dicendo il fatto che il medico non può operare da solo, ha bisogno di un infermiere, di qualcuno che prenoti le visite e organizzi. Ma dico questo, in questi mesi che era stato previsto doveva essere fatto, il ministro Speranza lo ha detto decine e decine, tutti hanno detto bisogna rafforzare la medicina territoriale, mi sta dicendo che questo non è avvenuto? No, non è avvenuto perché continuiamo a essere uguali a prima, non è stato fatto nulla, è stato soltanto siglato l'accordo sui tamponi, con un grande senso di responsabilità da parte dei medici, ma questo capisce bene che si somma a tutte le altre incombenze che un medico da solo, senza l'organizzazione dovuta, deve fare. Il modello tedesco, per esempio, è un modello oggi assolutamente funzionale rispetto a questo, perché c'è una presa completa in carico del cittadino. E questo in Italia è difficile che avvenga, se non per buona volontà. Grazie Filippo Anelli, presidente dell'Ordine Nazionale della Federazione dei Medici. Staremo a vedere se effettivamente ci saranno nuove regioni, zone rosse, se questo di fatto non diventerà poi un lockdown nazionale e soprattutto questa ultima questione, se qualcuno la raccoglierà sul serio, seriamente, quello della medicina territoriale. È veramente incredibile, ha un effetto straniante, allucinante. Pensare che dopo 8 mesi dallo scoppio di questa pandemia stiamo ancora qua a fare gli stessi discorsi. Adesso invece, diciamo così, proviamo un po' a guardare anche in prospettiva e a raccogliere quello che di positivo c'è in questa situazione. Il governo, dopo il bonus mobilità, che ha avuto una grande adesione qualche giorno fa, adesso da oggi proprio ha messo a disposizione, ma in realtà è un decreto che arriva dal 1° di ottobre, il bonus per PC e banda larga. Ne parliamo con Andrea Biondi, collega del Sole 24 Ore. Andrea, buongiorno. Buongiorno Alessio. Allora, a chi si rivolge questo bonus, Andrea? Si rivolge alle famiglie con meno di 20.000 euro di ISEE. Sono appunto loro le famiglie che possono usufruire di questo sconto attivabile direttamente presso gli operatori. Uno sconto fino a 500 euro. In particolare si parla di una connettività a almeno 30 megabit al secondo, sì, e qui ci sono a disposizione 200 euro, e di un tablet o di un personal computer fornito dall'operatore per una somma compresa fra i 100 e i 300 euro. Quindi le due cose, l'abbinata, il collegamento, sì, qualora uno non ce l'avesse, e anche il device, il tablet o il PC. Quanti sono gli italiani, Andrea, che effettivamente, si hanno delle stime, immagino, no, non hanno ancora questo tipo di connessione a disposizione? Ma allora, bisogna dire, Alessio, che ci sono poi molti dati e considerazioni che sottolineano il ritardo, lo scontento digitale dell'Italia. Ne cito uno che è stato dato recentemente da un rapporto Censis, secondo cui durante il lockdown 11 milioni e mezzo di famiglie ho svolto attività online e per 8,2 milioni di famiglie, cioè parliamo di 24 milioni di persone, questa era la prima volta. E lo stesso rapporto parla di 3 milioni e mezzo di famiglie senza internet. Poi, come dire, i dati del ritardo, dello scontento digitale dell'Italia, ce ne sono tanti in giro, c'è un indice europeo, il DESI, che ce lo ricorda ogni anno. Non è tutto da buttare, ben inteso, cioè la dotazione a banda ultralarga oltre i 30 megabit, perché questo è quello che definisce la banda ultralarga, oltre i 30 megabit, la diffusione, cioè vale a dire il servizio a disposizione, per un territorio che copre l'89% contro l'86% di media europea. Saremo anche avanti. C'è stato Qual è il problema? Sì, qual è il problema? Il problema è quando si va sopra i 100 mega, cioè quella che adesso viene ritenuta la dotazione minima per i servizi che dovranno poi essere attivati da tutta l'evoluzione digitale. E qui la diffusione, cioè non parliamo di gente che ha preso il servizio, ma diffusione sul territorio, disponibilità. 30% di famiglie contro il 44%. Quindi hai voglia te a dare bonus europea per fare abbonamenti se poi abbiamo delle medie così basse. L'ultima cosa che ti voglio chiedere però, Andrea Biondi, è questa: con questi a seconda 500 euro o in alcuni casi, se ho capito bene, un po' meno, a prezzi di mercato, no? Che tipo di abbonamento, cioè si riesce a comprarci il device, a fare un abbonamento per un anno e mezzo, cosa ci si fa? Sì, allora l'abbonamento deve essere per un anno. Gli operatori, ci sono già degli operatori che si sono ovviamente attivati, adesso al momento sono 13 quelli che hanno delle offerte disponibili, ma altre offerte, per dire, di Vodafone o di Fastweb arriveranno, loro ancora non le hanno attivate, altri come TIM, Wind 3 l'hanno fatto, e sì, ci si riesce a prendere qualcosa ovviamente. È un inizio, insomma. È un inizio assolutamente, considera la dote, non è tantissimo, non si parla di tanti soldi, neanche di pochi, sono 204 milioni di euro e la misura sarà in vigore per un anno, fino a ottobre del 2021. Va bene, staremo a vedere, inizia da oggi questa partita qua. Grazie Andrea Biondi. 13:31, noi invece ci fermiamo. 349-238-6666 se volete commentare quello che avete sentito sin qua. Torniamo tra poco con Effetto Mondo, Giulia Crivelli. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi, emergenza Covid, riunita la cabina di regia per valutare il rischio delle regioni. Nuovi appelli intanto di medici, infermieri, anestesisti, serve il lockdown nazionale. Subito al lavoro il presidente eletto Joe Biden, oggi incontra la task force anti-Covid. Dramma nel torinese, spara a moglie e figli, poi si toglie la vita, salva una delle due bambine. Bonus PC e banda larga, parte da oggi la corsa ai voucher per le famiglie. Il punto di Alberto Orioli. Il collocamento del nuovo BTP Futura 2, che dovrà servire al governo per finanziare le misure anti-Covid, è partito bene, come l'altro BTP Futura, che a luglio ha consentito di raccogliere 6,3 miliardi. Nelle prime due ore di contrattazioni erano stati raccolti oltre 800 milioni di euro, così come nell'emissione precedente. La nuova obbligazione avrà durata di 8 anni e scadrà nel novembre del 2028 e garantisce una cedola in crescita secondo tre passaggi, lo 0,35% per i primi tre anni, poi lo 0,6% dal quarto al sesto anno e l'1% infine negli ultimi due. Per chi tiene il titolo, fino a scadenza è previsto un premio fedeltà legato all'andamento del PIL, che potrà oscillare tra l'1 e il 3%. Rispetto all'emissione precedente i rendimenti sono più bassi, perché prima oscillavano dall'1,15 all'1,45%, ma la situazione si è modificata. Gli analisti e risparmiatori, cui l'emissione del BTP Futura 2 è dedicata, guardano alle nuove condizioni di mercato e non è irrilevante il fatto che proprio oggi il BTP a 10 anni sia sceso allo 0,603%, il tasso più basso di sempre, cosa che rende il nuovo titolo ancora più competitivo.